te il giovedì, i miei sogni, desideri scoperti, a te ti facevo conferenze, ora ti canto il mio amore, il giorno si fa strada dentro la città, ogni da guardi come è stato raccontato. Su Bologna è gremito di gente che fuma, un teatro senza palco che esistiamo. Molto bello.